Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Aveva un solo difetto: portare un cognome anonimo e credere nella meritocrazia. Ingenua lei, colpevoli noi che sapevamo che le cose non vanno esattamente così. Non poteva vivere in quest'Italia asservita e non poteva neanche allontanarsene. Voleva semplicemente vivere nella sua Calabria, dove era amata dai suoi innumerevoli amici. È una colpa da pagare a così caro prezzo? Se è così, giovani, andate via. Andate via e abbandonate questa terra. Noi non vi vogliamo. La drammatica lettera con cui abbiamo scelto di aprire oggi la puntata di Giovani Talenti è stata pubblicata alcuni giorni fa dal quotidiano della Calabria. A inviarla la madre di Lucia, una ragazza di 28 anni, laureata in ingegneria gestionale, che si è tolta la vita il 4 aprile lanciandosi dal balcone di casa a Cosenza. La lettera si chiude con un invito alle madri a combattere questo mostruoso leviatano che divora i figli del Sud. E voi, giovani ascoltatori, cosa ne pensate? È ora di togliere il nostro paese dalle mani di questi lupi, di questi burattinai, dei servi e dei mediocri, definizioni scelte con rabbia dalla madre di Lucia, che si sono fatti classe dirigente, uccidendo il merito? Scriveteci a giovanitalenti@radio24.it e sul nostro blog online pubblicheremo le vostre riflessioni. Oggi invece vogliamo lanciare un appello all'internazionalizzazione. Come dice Renzo Piano, andate all'estero e poi tornate pronti a cambiare le regole del gioco. Siamo una generazione sicuramente più globale di quelle che ci hanno preceduto. Si nota dai numerosissimi giovani che si recano all'estero per studio e per lavoro. Silvia Vendrame, 27 anni, è HR Coordinator per un'importante banca privata internazionale in Svizzera. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. Presentati martedì i risultati definitivi del sondaggio Welcome Talent, organizzato dai Talents e Comune di Milano. Oltre 1300 gli expats che hanno partecipato, uomini per il 55%, donne per il 45%, l'88% di loro laureati. Tra i risultati principali, si va all'estero soprattutto per trovare una vera valorizzazione delle proprie capacità e competenze, più ancora che per il salario migliore. Quei pochi che tornano incontrano molte difficoltà nel far carriera, soprattutto se giovani, a causa di tempi lunghi e meccanismi opachi di selezione. Più frequenti i contratti a tempo indeterminato tra chi è all'estero rispetto a chi rientra nella penisola. Infine, per l'80% del campione serve una borsa lavoro che agevoli l'incontro tra aziende tricolori e professionisti intenzionati a tornare in Italia. E secondo un rapporto redatto da un gruppo di 7 cervelli italiani all'estero presentato all'Aspen Institute, i connazionali altamente qualificati che lavorano nei paesi OCSE sono circa 300.000, il 32% negli Stati Uniti, il 40% in Europa. Sempre per la ricerca, esiste un saldo negativo tra talenti in entrata e in uscita, esacerbato dall'alta qualificazione di chi lascia il paese rispetto a chi vi arriva. Situazione preoccupante per i giovani che restano, troppo spesso destinati a ingrossare l'esercito di inattivi. In Italia sono quasi 3 milioni le persone che vorrebbero lavorare ma hanno rinunciato perché bloccati dalla sfiducia. Il dato è triplo rispetto all'Europa. In forte aumento gli under 25, cresciuti di 3 punti in un anno. Lo denuncia l'Istat. In Europa la disoccupazione si mantiene su livelli molto elevati. Il rischio di avere una generazione perduta, così Christine Lagarde, direttore generale dell'FMI. Il governo guarda a talenti e merito, il nostro paese investe ancora troppo poco in ricerca, ha un numero insufficiente di brevetti e perde troppi talenti per l'alto numero di giovani che emigrano, così il premier Mario Monti nella prefazione al documento di economia e finanza. Questa crisi sta imponendo un prezzo altissimo in termini economici, sociali, umani alle famiglie, ai giovani, ai lavoratori, alle imprese. Aspirazioni, quelle dei giovani italiani che non hanno lavoro, che rimangono frustrate. Sempre nel DEF, Monti ha immaginato più giovani laureati al lavoro entro il 2020. Infine l'annuncio: per valorizzare e trattenere in Italia i migliori talenti, l'esecutivo presenterà un disegno di legge sul merito. Qualche timida schiarita sul fronte lavoro per i neolaureati. Il 34% delle aziende prevede di incrementare il numero di giovani dottori nel proprio organico. Le intenzioni di assunzione sono cresciute di 10 punti, lo afferma Bachelor. Io mi sono laureata lo scorso settembre, ma la mia situazione risulta molto più difficile degli altri neolaureati perché rischio di dover lasciare presto il paese. E tutto questo perché non sono nata qui, ma sono arrivata in Italia quando avevo poco più di un anno. Mi chiamo Sima Travasso, ho 24 anni. Ho studiato qui in Italia e mi sono laureata a settembre e sto cercando lavoro nel campo del design e dell'architettura. Paradossi d'Italia, paradossi di un paese che i talenti, se sono di origine straniera, addirittura li espelle. L'unica colpa di Sima Travasso? Essere indiana, arrivata nella penisola quando aveva un anno. Si è appena laureata in design di interni, ma se non trova presto un lavoro rischia l'espulsione dal paese. La denuncia e l'audio sono sul sito italianidifrontiera.com. Un motivo per restare. o tornare. Un bel segnale di internazionalizzazione. Il Politecnico di Milano ha annunciato che dal 2014 i corsi specialistici e dottorali si terranno solo in lingua inglese. Più apertura globale per i nostri studenti, maggiori incentivi a professori e studenti stranieri a venire a insegnare e formarsi in Italia. Un esempio da seguire. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un Business Process Analyst Life and Pension per CP Consulting Solutions a Londra, info su cpconsul.com. Un Communications Officer alla Corte Penale Internazionale dell'AIA, scadenza per i CV domani, info su icc-cpi.int. E infine un direttore della ricerca nel Dipartimento Sicurezza e Qualità Alimentare dell'Università di Ghent in Belgio, scadenza per i CV 31 maggio, info su ughent.be. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta in Svizzera. Poco oltre le Alpi cambia molto la prospettiva e le opportunità di carriera per i nostri migliori giovani professionisti. Nome: Silvia. Cognome: Vendrame. Età: 27. Città di origine: Treviso. Studi: Economia degli scambi internazionali. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2010. Per andare dove? In Svizzera. Perché? Per lavoro. Quale lavoro svolgi attualmente? HR Coordinator. Dove? In una banca. Tornerai? Non al momento. L'italo-svizzero Robert Miles, Voyage, per introdurre la storia di Silvia Vendrame, storia che ha alla propria base una fortissima impronta di viaggio e scoperta. Tra poco ci arriveremo, Silvia. Prima però una domanda a bruciapelo: quanti anni ti ci sarebbero voluti in Italia per arrivare all'attuale posizione a soli 27 anni? Te lo sei mai chiesto? Non lo so sinceramente, ma sarebbe dipeso dall'azienda in cui avrei lavorato. Ci sono aziende che puntano sui giovani, però la maggior parte non lo fanno e sicuramente paghiamo un problema generazionale. Il tuo sbarco all'estero comincia in realtà ben prima dell'università, vitale per te un anno in Germania, nel land del Baden-Württemberg, e per la precisione il quarto anno delle superiori grazie a Intercultura. Cosa ti ha spinto così giovane a lasciare l'Italia e qual è stato l'impatto con la Germania? Ho sempre avuto una forte curiosità per le diverse culture e già a 14 anni avevo deciso di fare il liceo linguistico. L'anno in Germania mi ha sicuramente aperto le porte del mondo globale e mi ha fatto capire che appena avevo avuto la possibilità sarei sicuramente voluta tornare all'estero. Silvia, quanto i ventenni di oggi sono più globali e coscienti della necessità di una progressiva internazionalizzazione rispetto alle generazioni precedenti? Siamo una generazione sicuramente più globale di quelle che ci hanno preceduto. Si nota dai numerosissimi giovani che si recano all'estero per studio e per lavoro. Per l'università scegli Ca' Foscari a Venezia, laurea in economia degli scambi internazionali. Perché? Perché appena tornata dalla Germania volevo lavorare all'estero, avevo anche un forte interesse nell'economia. E ancora, durante l'università non si placa la tua voglia di viaggiare, esplorare? Uno stage di 4 mesi in Cile alla Camera di Commercio italiana, un Erasmus all'università tedesca di Bamberg. Quale valore aggiunto ti hanno portato queste esperienze e soprattutto quanto è ormai imprescindibile non limitare la propria esperienza universitaria ai banchi di studio? Fare esperienze di stage durante gli studi è importantissimo, in quanto permette di avere un primo contatto con il mondo del lavoro, di farsi un'idea su come sarà. Inoltre, un neolaureato diventa molto più appetibile se ha già esperienze di stage. Nel 2009 ti laurei. Un giudizio complessivo sulla formazione in Italia? Dal punto di vista teorico direi buono, molto buono. Quello che è mancato sicuramente è la parte pratica. Questo ritorna spesso. Prima di lasciare l'Italia fai un'esperienza di stage nella sede di una multinazionale. Allora, quale impressione ti ha lasciato dell'ambiente di lavoro del bel paese? Quali soprattutto le differenze con l'estero? Ho notato persone che non erano molto soddisfatte del loro lavoro, ma non facevano niente per cambiarlo. In Svizzera è normale che se non si è contenti di parlarne all'interno dell'azienda ed in caso cercare un nuovo lavoro. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno. La scelta di andare in Svizzera è nata un po' per caso. Ho visto un'offerta di lavoro interessante su un portale internet, ho inviato il mio curriculum, dopo pochi giorni mi hanno contattata. 2 colloqui, poi un'intera giornata a Zurigo e infine il contratto a tempo indeterminato. Sintetizzi così, Silvia, il salto oltre frontiera. A parte la tua ottima conoscenza del tedesco, non ti sembra che il dinamismo del mondo dell'impiego oltre le Alpi non abbia paragoni rispetto a questa Italia, dove i neolaureati non trovano né offerte adeguate né possibilità di carriera concrete? Il mercato del lavoro svizzero è molto molto dinamico e le leggi che lo regolamentano sono molto diverse da quelle dell'Italia. C'è altissima richiesta qui in Svizzera di personale laureato e spesso l'offerta interna non basta a soddisfare la domanda e qui non c'è paura di assumere neolaureati e di dare loro delle responsabilità. Sembra che tu arrivi da un altro pianeta. Cominci come consulente di recruitment per una società che si occupava di ricerca di personale qualificato. In un solo anno vogliamo raccontare come, sulla base solo del merito e dei risultati risultati sei stata promossa a gestire, poco più che ventenne, un intero team. Alla fine del primo anno ho ottenuto i risultati migliori all'interno del mio team, per cui è stato deciso di affidarmi la gestione di un team di 5 persone, tutte più vecchie di me. Meritocrazia, come abbiamo visto, è un termine non solo teorico, ma si può applicare alla realtà e il tuo caso lo dimostra. Infatti, lo scorso dicembre hai ottenuto la posizione di HR Coordinator. Vogliamo raccontare quali responsabilità hai a soli 27 anni? Mi occupo di selezione del personale, un po' di amministrazione, ma soprattutto di formazione e sviluppo. Sono l'unica persona in Svizzera responsabile per il processo di valutazione alla fine dell'anno. Sulla base di questo vengono poi decisi bonus ed eventuali promozioni. Ecco, così si misura il merito concretamente, vero Silvia? Raccontaci esatto. Meglio. Esatto, il merito viene misurato sulla base dei risultati ottenuti durante l'anno, sui miglioramenti fatti e sulle valutazioni ottenute dai propri colleghi. E non su quanto sei simpatico o antipatico al capo di turno, ma avviene troppo spesso in Italia, no? No, non su questo. Merito e non relazioni. Quanto si investe in Svizzera nella formazione del personale per avere forza lavoro sempre più qualificata? In Svizzera si investe molto in questo. Le aziende spingono i propri dipendenti ad affrontare sempre nuovi corsi di aggiornamento e coprono le spese. E in Italia come funzionano le risorse umane? Sono al passo coi tempi? Da quello che sento, ci sono aziende che hanno capito quanto è importante investire nelle risorse umane e che le risorse umane non sono solamente amministrazione e salari. Purtroppo la maggior parte delle aziende non hanno ancora capito questo concetto fondamentale. Silvia, è vero che stai osservando un boom di stranieri qualificati che vengono a occupare importanti posizioni in Svizzera, ma soprattutto quanti giovani professionisti italiani fanno parte di questo boom? Sicuramente ci sono molti stranieri, tutti laureati, spesso anche con un dottorato, che vengono a lavorare in Svizzera. Italiani ce ne sono tanti. Profilo medio? Laureato con una specialistica, a volte anche con già una prima esperienza di lavoro in Italia. Scappano? Sì, scappano. Da cosa? Scappano da delle retribuzioni che sono ridicole per chi ha questo tipo di profilo e soprattutto da contratti e lavori che non riescono a valorizzarli. Domanda diritto, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? E una proposta concreta da cui ripartire? È un paese dove ci sono sicuramente molte persone che hanno voglia di fare, ma c'è troppa burocrazia, c'è troppa staticità ed è anche un paese vecchio. Dobbiamo puntare sui giovani, migliorare soprattutto il rapporto tra università ed aziende. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Silvia Vendrame, 27enne, Human Resources Coordinator per un'importante banca privata internazionale a Zurigo. Silvia vi è giunta dopo una laurea in economia all'Università Veneziana Ca' Foscari, intervallata da uno stage e da un Erasmus tra Sud America ed Europa. In Svizzera Silvia sta sperimentando una cultura aziendale e delle risorse umane fortissimamente improntata al merito e ai risultati, regola che purtroppo non riscontra sempre in Italia. Alla base del suo percorso internazionale, l'esperienza scolastica all'estero per un anno con Intercultura. E ci raggiunge ora in linea Raffaele Pirola, che di Intercultura è direttore marketing. Buon pomeriggio. Buongiorno a voi. In due parole, Raffaele, cos'è Intercultura? Lo vogliamo ricordare? È un'organizzazione che da 60 anni manda i ragazzi a fare il quarto anno di scuola superiore all'estero, con l'idea che in realtà quello che conta è uscire di casa a quell'età e fare un'esperienza di diversità culturale, una cosa che ti apre la mente e che ti aiuta a muoverti maggiormente a tuo agio sulla scena internazionale. Quindi è una cosa che se fai a 16 anni ti abitua per il resto della vita. Vogliamo sfatare subito un mito, e cioè che i nostri giovani, i nostri diciottenni sono dei bamboccioni senza arte né parte. Vogliamo spiegare quanto sono più globali delle generazioni che li hanno preceduti? Sicuramente c'è un'inversione di tendenza di fronte a noi. Noi ogni anno facciamo uno studio con Ipsos per monitorare un po' proprio il numero dei ragazzi che fanno un periodo di scuola all'estero durante le superiori, e negli ultimi due anni ci dicono che c'è stato più 34%, e che in termini assoluti vuol dire circa 4.700 studenti, che in realtà sono ancora pochi rispetto alla massa della popolazione studentesca. Quindi forse bamboccioni un pochino lo siamo ancora se ci confrontiamo ai numeri dei ragazzi del centro Europa, del nord Europa, però ecco, evidente, lo vediamo anche a livello qualitativo, che i ragazzi stanno cambiando la testa, proprio come ha raccontato Silvia: se queste opportunità non ci sono in Italia, nessun problema, me le vado a prendere all'estero. Dove va questa generazione globale? È vero che è già avanti, come dire, nell'intravedere i paesi del futuro? Sembra sembra proprio di sì, perché pensa che nel 2000 circa l'1% andava in Asia e il 7% andava in America Latina. Nel 2012 questi numeri sono diventati il 10% va in Asia e addirittura il 22% va in America Latina. Sono ragazzi che hanno l'idea di muoversi per fare esperienza fin da giovani. Uno su 10 di loro poi sceglie anche l'università all'estero, questo è un dato interessante. Ora però sarò diretto, quando fanno il salto oltre le Alpi, come è il caso di Silvia, c'è un sistema Italia pronto a valorizzarli nell'ottica di un rientro? Anche qui si sta muovendo qualcosa, Silvia è stata molto drastica prima nel dire io ho queste condizioni e non rientro in Italia. Secondo me qualche cosa di positivo si vede, sono molte le aziende che vengono a cercare i nostri studenti quando sono all'estero, poi ci dicono ma gli abbiamo fatto anche una proposta per rientrare. Diciamo che quello che conta evidentemente è che ci sia la voglia di valorizzare la capacità di muoversi. Prima Silvia faceva riferimento anche all'università e alla scuola. Se mettiamo al centro di questa riflessione le competenze che si imparano andando a lavorare o a studiare da un'altra parte, allora probabilmente anche le aziende, se le valorizzano queste esperienze, poi sapranno riportare a casa i cervelli che sono scappati, offrendogli effettivamente delle opportunità e non magari quelle penalizzazioni di cui parlava Silvia. In sintesi, Raffaele, quali rischi può correre l'Italia se sottoutilizzasse o perdesse, con lavori anche precari o frustranti, questa generazione Y di diciottenni globali? Grossissimo, perché chiaramente vuol dire spostare il nostro valore aggiunto, no, dei nostri giovani e perderlo e lasciarlo in mano a aziende e anche a istituzioni di altri paesi. Ecco, vuol dire diventare un paese che sempre meno è inserito nei processi decisionali e che non è in grado anche di attrarre dall'estero le migliori eccellenze, quindi un paese che in linea di massima diventa un anello in una catena, ma non è certamente quello che guida lo sviluppo. Grazie a Raffaele Pirola. Domanda di rito per Silvia Vendrame: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Non bisogna assolutamente avere paura di andare all'estero, bisogna però essere consapevoli del fatto che ogni giorno veramente si deve dimostrare il proprio valore, nessuno ci regala niente neanche all'estero. E inoltre, per provare seriamente a cercare lavoro all'estero, si devono conoscere molto bene le lingue straniere. Siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Come ogni ultimo sabato del mese, vi portiamo a scoprire una comunità di nuovi emigrati in collaborazione con italiansonline.net, la più grande comunità virtuale e non di italiani all'estero. Restiamo in Svizzera oggi con Giuliana Riva, amministratrice di IOL Losanna. Vengono molti al Politecnico che c'è qui a Losanna perché sono attirati dalle tecnologie disponibili, dal contatto con le imprese e dal fatto che gli stipendi sono decisamente più alti che in Italia, e poi spesso restano dopo perché trovano dei contatti e dei contratti nelle ditte qua in zona. Poi se ci si sposta più verso un po' più lontano sull'arco Lemano, ci sono anche tutti quelli che vengono drenati da grandi società come Yahoo per esempio, multinazionali che lavorano comunque su questo arco qua del lago e che quindi attirano dei talenti abbastanza importanti. Sono tutti laureati anche con master, insomma parliamo di professionisti high skilled. La maggior parte sono di questo tipo. La Svizzera è una delle mete di maggiore migrazione anche oggi dei giovani professionisti italiani. È un fenomeno in crescita dal tuo punto di vista, osservatorio? Dal mio punto di vista ho l'impressione che ci sono sempre più persone che chiedono informazioni per venire in Svizzera perché vogliono appunto lasciare l'Italia, e la Svizzera è vicina, quindi la voglia di venire a scoprire cosa c'è dall'altra parte è piuttosto forte, direi, soprattutto in questi ultimi tempi. Perché? Penso che sia soprattutto legato a una paura di non trovare lavoro, di non essere riconosciuti per i meriti che uno ha, di ritrovarsi con degli impieghi a progetto senza futuro. E la cosa che è divertente è che qui in Svizzera le persone possono venire licenziate con 3 mesi di anticipo, quindi il contratto a tempo indeterminato non esiste nel senso italiano, però alla fine il mercato del lavoro offre più possibilità probabilmente. Non esistono questi stage non pagati piuttosto che situazioni estremamente precarie. Ed è difficile avere un permesso di lavoro, di soggiorno in Svizzera, come si fa? Dal momento in cui si è cittadini dell'Unione Europea, in questo momento esistono degli accordi bilaterali, per cui è abbastanza facile. Nel momento in cui si convince un datore di lavoro a offrirci il posto, poi è più o meno una formalità adesso il permesso di soggiorno. Per chiudere le attività di IOL Losanna, quali sono le principali? Di tipo ricreativo, quindi cerchiamo di trovarci per fare un brunch, mangiare una pizza, ogni tanto facciamo anche qualcosa di più culturale. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.italiansonline.net.